Come usare delle bevande. La sobrietà nel bere, il vino e l'acqua. A Timoteo, che beveva solo acqua, l'Apostolo dice: «Bevi anche un poco di vino a causa del tuo stomaco», indicandogli così un rimedio astringente ottimo per un corpo ammalato e languido. Gli consiglia però di berne poco, affinché questo aiuto, se assunto in grande quantità, non necessiti poi a sua volta di un'altra cura. L'acqua, invero, è una bevanda naturale e sobria, necessaria a chi ha sete. Fu acqua che il Signore diede agli antichi ebrei come bevanda semplice e adatta alla temperanza, facendola scaturire dalla roccia diroccata. Essi, infatti, che ancora vagavano nel deserto, avevano particolare bisogno di nutrirsi in modo sobrio. Successivamente la Santa Vite portò il grappolo profetico e questo fu un segno per coloro che il pedagogo aveva condotto dall'erranza al riposo. Rappresentava cioè il grande grappolo, il Logos pestato per noi, giacché il Logos voleva che il sangue di uva fosse mescolato con acqua, come anche il suo sangue è mescolato con la salvezza. Infatti il sangue del Signore è duplice: da una parte quello carnale, grazie al quale siamo stati liberati dalla corruzione, dall'altra quello spirituale, con il quale siamo stati unti. Ora, prendere parte all'incorruttibilità del Signore significa appunto bere il sangue di Gesù. La forza del Logos è lo spirito, come la forza della carne è il sangue. Analogamente, il vino viene mescolato all'acqua come lo spirito all'uomo. E come il vino miscelato nutre per la fede, così lo spirito conduce all'incorruttibilità. E la miscela di questi due, cioè della bevanda e del Logos, è chiamata Eucaristia, un dono di grazia lodato e bello. Chi con fede prende parte ad essa si santifica nel corpo e nell'anima, cioè nell'interezza di questa divina miscela che è l'uomo e che il Padre ha voluto misticamente mescolare con lo Spirito e con il Logos. In effetti, come lo Spirito si è davvero congiunto all'anima da lui sostenuta, così la carne si è congiunta al Logos, quella carne in virtù della quale il Logos si è fatto carne. Perciò io ammiro coloro che hanno scelto uno stile di vita austero e che bevono questo farmaco di temperanza che è l'acqua, fuggendo invece il più possibile il vino come la minaccia di un incendio. I pericoli del vino. È bene che i giovani e le fanciulle si astengano in massimo grado da questo farmaco. Non è infatti opportuno versare vino, che è il più caldo dei liquidi, su di un'età già bollente. È come aggiungere fuoco al fuoco. Con esso gli stimoli degli istinti, i desideri bramosi e l'ardore del comportamento si incendiano. In tal modo i giovani, scaldati interiormente, inclinano verso gli stimoli delle passioni e questo loro male è denunciato visibilmente dal corpo stesso, giacché a causa del vino gli organi della sensualità giungono a maturazione più presto del normale. A motivo del vino che si surriscalda, i seni e gli organi sessuali si gonfiano e diventano turgidi, mostrando precocemente un'immagine di fornicazione. Il corpo necessariamente infiamma e amplifica la piaga dell'anima. I palpiti impudichi suscitano curiosità sconvenienti e invitano alla trasgressione anche chi ha costumi onesti. In tal modo il vino dolce dell'età giovanile fa oltrepassare già i limiti del pudore. È necessario quindi, per quanto è possibile, cercare di spegnere le passioni dei giovani, da una parte sottraendo il combustibile, quello appunto del pericoloso bacco, e dall'altra versando un altro farmaco come antidoto al surriscaldamento. Qualcosa che freni l'anima infiammata, contenga il turgore degli organi e calmi l'eccitamento della concupiscenza già scatenatasi. Coloro dunque che sono nel pieno vigore dell'età, quando prendono il pasto quotidiano, un pasto a loro adatto, mangino solo pane e si astengano dal bere, in modo che la loro umidità superflua venga assorbita dal cibo asciutto, come da una spugna. Ora è segno di intemperanza, derivante da una incontrollata ed eccessiva assunzione di liquidi nel corpo, il continuo sputare, soffiarsi il naso e correre al bagno. E se si avesse sete, si ponga rimedio a questo fastidio con dell'acqua, ma non molta. Non bisogna riempirsi immoderatamente d'acqua. I cibi, infatti, non devono essere lavati e diluiti nello stomaco, bensì sbriciolati e impastati per la digestione, cosicché tutti gli alimenti trovino ordinatamente il loro posto nella massa del corpo e solo pochissimi vengano evacuati. Bisogna usare del vino con moderazione. D'altronde non bisogna appesantire col vino la contemplazione delle cose di Dio. Dice infatti il comico: il vino non miscelato costringe a pensare poco, o addirittura non pensare nulla di saggio. La sera però, all'ora di cena, si deve bere del vino, poiché a quell'ora non ci occupiamo più di letture che richiedano maggiore sobrietà. Anche l'aria si fa più fresca la sera e perciò bisogna supplire alla temperatura naturale che diminuisce portando nel corpo del calore, appunto con un po' di vino. Ma non bisogna spingersi fino all'eccesso sfrenato dei calici. Ai più avanzati nell'età, invece, si deve concedere più volentieri di bere. Senza danno, infatti, riscaldano con il frutto della vite l'età che si va raffreddando, come consumata dal tempo. Invero, le passioni degli anziani, per lo più, non sono così travolgenti da portare ai naufragi dell'ebbrezza. Essi sono, per così dire, trattenuti dall'ancora della ragione e dell'età, sì da poter tollerare più facilmente la tempesta che si scatena a causa dell'ubriachezza. Perciò ad essi è forse anche lecito divertirsi un po' con i banchetti, ma anche per loro il limite del bere sia il mantenimento di una salda lucidità di pensiero, di una memoria attiva e di un corpo non scosso e sbandato dal vino. È questo che gli esperti in materia chiamano essere brilli. Ma è bene fermarsi prima, perché è facile scivolare. Ricordo che un tale Artorio, nel suo libro sulla longevità, sostiene che per avere una vita più lunga bisogna prendere vino solo tanto quanto basta per umidificare gli alimenti. Lo si può bere quindi da una parte a mo' di medicina e in vista della salute, dall'altra per rilassarsi e rallegrarsi. Il vino, infatti, rende dapprima colui che lo beve più gradevole a se medesimo, più affabile con i convitati, più tranquillo con i domestici e più allegro con gli amici. Ma se se ne beve troppo, se ne ottiene in cambio tracotanza e violenza. Il vino, essendo caldo e costituito da liquidi dolci, se miscelato in giusta misura, discioglie con il suo calore la vischiosità degli escrementi e agli umori acri e cattivi mescola un buon profumo. Perciò è stato detto giustamente: il vino fu creato da principio per l'esultanza dell'anima e del cuore, se bevuto con moderazione. La cosa migliore è che il vino venga miscolato con il più possibile di acqua, sì da ottunderne l'effetto inebriante, e che non venga versato come se fosse acqua, per l'inclinazione che si ha verso di esso. In verità, sia l'acqua che il vino sono creazioni di Dio, e la miscela di queste due cose procura salute. La vita, infatti, si fonda tanto sul necessario quanto sull'utile. I mali dell'ubriachezza. Bisogna quindi mescolare il più possibile d'acqua che è necessaria all'utile, cioè al vino. Ma se si beve vino senza misura, la lingua si impaccia, le labbra si allentano, gli occhi si stravolgono, come se la vista annegasse a causa dell'eccesso di umidità. E così gli ubriachi, ridotti per forza a ingannare se stessi, credono che tutto intorno a loro giri e non riescono a contare uno per uno gli oggetti lontani. «Mi par davvero di vedere due soli», diceva il vecchio tebano ubriaco. La vista, infatti, surriscaldata dal vino, spesso immagina di vedere moltiplicato quello che in realtà è un unico oggetto. E non fa alcuna differenza se è la vista che si muove o l'oggetto. In entrambi i casi l'impressione della vista è la medesima e si è incapaci di raggiungere una percezione nitida a causa dell'agitazione. Le gambe sembrano scosse dalla corrente di un fiume e cominciano a irrompere singhiozzi, vomito e deliri. Come dice la tragedia, ogni uomo avvinazzato è preda dell'ira, vuoto di mente, e dopo aver riversato molte parole inutili, finisce con l'ascoltare malvolentieri ciò che volentieri proferì stoltamente. Ma già prima della tragedia, la Sapienza aveva esclamato: «Il vino bevuto in gran quantità moltiplica l'eccitazione e le occasioni di caduta». Per questo i più ritengono che quando si beve ci si debba rilassare e rimandare le questioni importanti alla mattina seguente. Ma io sostengo che proprio in quell'occasione sia opportuno, più ancora che in altri momenti, invitare a banchetto il Logos, perché ci faccia da pedagogo contro gli effetti del vino e il convito non cada inavvertitamente nell'ubriachezza. Infatti, come nessuna persona ragionevole penserebbe di chiudere gli occhi prima di andare a dormire, così neppure sarebbe giusto voler allontanare il Logos dai conviti o metterlo a dormire prima di fare qualcosa. Il Logos non si allontani da noi neanche quando dormiamo, anche nel sonno deve essere invocato. La Sapienza, infatti, essendo la perfetta scienza delle cose divine e umane che abbraccia tutto, ed essendo la guida del gregge umano, costituisce la vera arte di vivere. E perciò è sempre presente in tutto ciò che facciamo e sempre persegue lo stesso fine, farci vivere una vita felice. Quei miserabili, invece, che cacciano via dai conviti la temperanza, credono che sia vita beata quella sregolata che gira intorno ai banchetti. Per essi il vivere non è altro che baccanali, crapula, terme, vini di qualità, pitali, vacanze, bevande. Si vedono talvolta alcuni mezzi ubriachi, barcollanti, che portano al collo corone di fiori, come fossero urne funerarie, e si versano e sputano l'uno sull'altro vino puro col pretesto di fare il brindisi. Altri poi, già oppressi dalla crapula, unti, pallidi, lividi in volto, si versano di nuovo la mattina dopo vino in aggiunta all'ebbrezza del giorno precedente. Ebbene dunque, amici miei, è bene che noi, osservando il più possibile da lontano questo spettacolo, allo stesso tempo ridicolo e pietoso, assumiamo un comportamento più nobile, avendo orrore di diventare anche noi forse un giorno simile oggetto di riso per gli altri. Sapientemente è stato detto: come la fornace prova il metallo nella tempra, così il vino mette alla prova con l'ebbrezza il cuore dei tracotanti. L'ebbrezza, infatti, è l'uso eccessivo di vino puro. Si dice poi avvinazzato chi diventa sregolato a causa del vino, e si dice infine crapula, craipale, la condizione spiacevole e vergognosa derivante dall'ebbrezza. È detta così a motivo del vacillare della testa, cara Pallein. Nutrendo profonda diffidenza per questo genere di vita, se vita la si può chiamare, così indolente, così dedita ai piaceri, così bramosa di vino, la Sapienza raccomanda ai suoi figli: non essere bevitore di vino, non andare là dove si fanno banchetti e si vende carne, poiché ogni ubriacone libertino diverrà povero e il sonnolento si vestirà di stracci. Sonnolento è chiunque non è sveglio in rapporto alla Sapienza, ma è immerso nel sonno a causa dell'ubriachezza. L'avvinazzato, dice, si vestirà di abiti stracciati e si dovrà vergognare della sua ebbrezza di fronte a quelli che lo guardano. Sono come finestre del peccatore gli strappi che l'amore dei piaceri provoca nella sua veste carnale, e attraverso tali finestre si vede lo stato vergognoso dell'anima che è dentro, ossia il peccato, a causa del quale non sarà facile che si possa salvare questo vestito tirato e strappato da tutte le parti, marcescente nelle sue molte concupiscenze, infinitamente lontano dalla salvezza. Per questo la Sapienza aggiunge in tono di accorato ammonimento: a chi le minacce, a chi il rimprovero, a chi il giudizio, a chi i discorsi di sdegno, a chi vane miserie. Guardate l'amante del vino come è tutto stracciato, disdegna il Logos e consegna se stesso in balia dell'ebbrezza, e di questo appunto la scrittura lo ha minacciato. Alla minaccia aggiunge anche le parole. Di chi sono questi occhi lividi? Non forse di quelli che passano il tempo tra i vini? Non forse di quelli che vanno dove si beve? In tal modo la scrittura mostra che l'amante del bere è già come morto in rapporto al Logos. I suoi occhi lividi sono il segno distintivo dei morti e annuncia a costui che egli è morto al Signore. Infatti l'oblio di ciò che porta alla vera vita è il sentiero verso la rovina. È naturale quindi che il pedagogo, sollecito della nostra salvezza, ci faccia questo categorico divieto. Non bevete vino fino all'ubriachezza. Tu chiederai, perché? Perché, dice, la tua bocca pronuncerà allora parole tortuose. Ti accascerai come un uomo in pieno mare o come un capitano durante una grande tempesta. È servendosi di queste parole che anche il testo poetico dice: il vino, che ha la potenza uguale al fuoco, quando si avvicina agli uomini li travolge con le sue onde, come il vento di tramontana e d'austro agita il mare libico. Il vino ha parole d'erranza e tutti i segreti nascosti svela. È per gli ebri un pendio scivoloso, il vino ingannatore dell'anima. È quel che segue. Vedete il pericolo del naufragio? Il cuore è sommerso dal molto bere e per questo il poeta paragona l'eccesso dell'ebbrezza alla minaccia del mare. Come una nave, il corpo sprofonda sommerso nel gorgo della sregolatezza, travolto dalle onde del vino. E la mente dell'uomo, come un capitano, cade in balia della tempesta quando l'ebbrezza prende il sopravvento e si trova in pieno mare smarrita nelle tenebre della burrasca. Ha perso la direzione a cui era diretta, il porto della verità, e finirà col cadere e infrangersi contro gli scogli che sono sotto l'acqua e, sbandata tra i piaceri, consumerà la sua rovina. È naturale, quindi, che anche l'Apostolo raccomandi: non ubriacatevi col vino, perché in esso vi è molta dissolutezza, alludendo con la parola dissolutezza, asodia, al fatto che chi si ubriaca non si salva, asoston. Se poi durante le nozze di Cana il Signore trasformò l'acqua in vino, non permise con ciò l'ubriachezza, bensì diede vita all'acqua del nostro intelletto, cioè all'uomo, che da Adamo in poi era solo un esecutore della legge. Ha riempito l'universo intero del sangue della vite, offrendo al popolo fedele la bevanda della verità, cioè il vino che è miscela dell'antica legge e del nuovo Logos, per dare compimento al tempo che era stato preannunciato. La scrittura designa il vino come mistico simbolo del sangue santo, ma condanna la feccia dell'ubriachezza. Cosa libertina è il vino e cosa tracotante l'ebbrezza. Certo, al retto Logos non dispiace che d'inverno, a causa del freddo, coloro che sono particolarmente sensibili al freddo bevano vino fino a non tremare più, e che nelle altre stagioni lo si beva come medicina per lo stomaco. Bisogna mangiare per non avere fame e bere per non avere sete, facendo molta attenzione a non cadere nell'eccesso, poiché il ricorso al vino è assai pericoloso. In tal modo anche la nostra anima potrà essere pura, solida e lucente. Un raggio di luce è l'anima solida, piena di sapienza e di bene, e un'anima contemplativa, non resa carnosa e umida dalle esalazioni del vino, che sono simili a una nebbia.